no. Meglio di no. È impossibile che questa truppa di giostrai si trasforma in star quando ti distrai. Quando siete, lo sai, non lo suppongo, ma è la verità. Tragedia, incendio, parole spavento, silenzio. Non voglio finire dentro, silenzio. Pesante come senso, ma se arriva la madama, scusa se mi assento. Sono figlio di nessuno, adesso mi presento. Mi dai la mano ti prendo. Gli infami devi ucciderli, mister presidente. Oppure le leggi non le cambi per niente. Io che sono nulla tenente. Quando parlo assomiglio a un uomo muto. Tu che parli e parli sempre. Al posto della bocca è un imbuto. Tu parli, tu vedi, tu senti. Io metto sempre da parte una parte per i fra. La strada lo sa chi sono. La strada lo sa chi siamo. Parli, vedi, senti. Io metto sempre da parte una parte per i fra. La strada lo sa chi sono. La strada lo sa chi siamo. Tu parli, parli, quanto parli. Nel mio mondo non usiamo sprecare il fiato. Nel mio mondo comunichiamo con lo sguardo. Tu non puoi capire, tu appartieni a coloro che offendono il mio sguardo. Il tuo occhio mi offende, tu povero viscido serpente. Tu non appartieni alla mia mente, tu mafioso, no schifoso. Tu parli, parli, quanto parli, parli, parli, parli. Era mezzo vuoto, per questo non mi fermo. Per colmare le mancanze faccio a pugni con l'inferno. Il mio cuore è grande quando in giro cerco amore. Il mio occhio è svelto e scruta bene le persone. Tu parli, tu vedi, tu senti. Io metto sempre da parte una parte per i fra. La strada lo sa chi sono. La strada lo sa chi siamo. Tu parli, vedi, senti. Io metto sempre da parte una parte per i fra. La strada lo sa chi sono. La strada lo sa chi siamo. Tu non sei come noi, tu non pensi come noi, tu non vedi come noi, tu non parli come noi, tu non vivi come noi. Tu non mangi con noi. Io stesso pago ogni mio reato commesso. Ad ogni tuo reato il magistrato mette dentro un altro. Tu sei un infame, la notte fai l'attore, di giorno il cantante. Quando sgrami gli amici son pugnali nelle spalle. È inutile parlare, non ci fermano le sbarre. È inutile spiegare perché parlano i fatti. E solo gli infami non rispettano i patti. Dannato, condannato al mio destino. Vivo, prigioniero, fiero del mio ego. Quando chiedo non ti prego, amico. Ha solo una parola, un fumarole. Quando dico io mantengo. Tu parli, tu vedi, tu senti. Io metto sempre da parte una parte per i fra. La strada lo sa chi sono. La strada lo sa chi siamo. Parli, vedi, senti. Io metto sempre da parte una parte per i fra. La strada lo sa chi sono. La strada lo sa chi siamo. Una madre muore ad ogni tuo nome. Infame. Qui Joker, Bolla G, Fadama.